Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto. As it should always be. The foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. È sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra. Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà. It's an important and popular fact that things are not always what they seem. For instance, on the planet Earth, man had always assumed that he was the most intelligent species occupying the planet, instead of the third most intelligent. The second most intelligent creatures were, of course, dolphins, who, curiously enough, had long known of the impending destruction of the planet Earth. They had made many attempts to alert mankind to the danger, but most of their communications were misinterpreted as amusing attempts to punch footballs or whistle for tidbits. So they eventually decided they would leave Earth by their own means. The last ever dolphin message was misinterpreted as a surprisingly sophisticated attempt to do a double backward somersault through a hoop while whistling the Star Spangled Banner. But in fact, the message was this. So long, and thanks for all the fish. So sad that it should come to this. We tried to warn you all, but oh dear. You may not share our intellect, which might explain your disrespect for all the natural wonders that grow around you. So long, so long, and thanks for all the fish. The world's about to be destroyed. There's no point getting all annoyed. Lie back and let the planet dissolve. Despite those nets of tuna feats, we thought that most of you were sweet, especially tiny tots and your pregnant women. So long, so long, so long, so long, so long. Eccoci qua, wow, come si piccia forte. Queste sono le porte di Tannhäuser, 13:59, onde medie, Radio Wombat. Entusiasmo! Super entusiasmo con questo intro pazzesco. L'avete riconosciuto? No, dai, se non l'avete riconosciuto fate schifo, andai via, via. Se l'avete riconosciuto potete scriverci apposta a wombat@cioè.net. Sì. E oppure sul pad diretta wombat.vado.li. E ci vado anch'io, perché sennò poi non leggiamo. Bravo, cosa... perché non l'ho ancora aperto. Cosa ci per... L'avete riconosciuto sicuramente tutte e tutti. Era l'intro, l'inizio del film della guida intergalattica per autostoppisti. La parte in cui i delfini ci danno i bona. Giustamente, giustamente. Io ho sempre ammirato quella parte. Cioè, secondo me era veramente una parte fondamentale in cui... Cioè, che un po' come quando invece c'era quell'altro film che ora mi sto dimenticando, in cui c'è l'invasione aliena e ci sono gli umani che dicono: sì, veniteci a prendere! Mars Attack, forse. Forse era Mars... No. Secondo me era un altro. Che dicono: sterminateci, sì, facciamo schifo. Ah, no. Forse no, era District 9. Vabbè, potrebbe, indagherò perché potrebbe. Non me lo ricordo più. Però ecco, interpretano una mia grande, così, segreta desiderio. Ma infatti se si sente, io ho visto la versione italiana e la versione inglese, praticamente uguale, però c'è nella parte in cui, c'è una parte nella parte inglese che dice: noi abbiamo distrutto il nostro, cioè come avete fatto a distruggere il vostro pianeta, scemi. In italiano non viene resa bene. Sì, è vero. Poi tutto il resto è uguale, ma quella parte lì... È vero. Sì, è vero, molto bella. Sì, Guida Galattica per autostoppisti. Oggi abbiamo deciso di fare una puntata dedicata a questo capolavoro, che come vedremo è noto per essere un romanzo, ma in realtà parte da un radiodramma. Quindi qui siamo prettamente nel nostro, cioè proprio giusto. Siamo a casa. Nasce come radiodramma, prosegue come romanzo e poi videogioco, film, serie televisiva, insomma, vedremo. E tra l'altro ha preso, cioè, ha dato là, queste abbiamo citato soltanto le cose più filologiche, ma poi insomma ha dato il là a milioni di citazioni, vari capitoli che venivano aperti in mondi anche completamente diversi, che però volevano citare la Guida Galattica. Insomma, è stato un modello e lo è tuttora. Sì, non possiamo dire, no, ovvio, non si può dire, però comunque no, tu non ti vieni di mettere Adams accanto a Asimov magari subito, immediatamente. No. Però in effetti sì. La sua è, se ci pensi bene, la sua influenza è talmente potente che nell'immaginario, no? Moderno, contemporaneo della fantascienza, e ha, come dici tu, appunto, influenzato tanto, ma anche musicisti, insomma, quindi è importante, c'è poco da fare. Sarei curiosa anche di sapere se questa influenza che ha avuto, che a noi nerd, diciamo, risulta così ovvia, se l'ha avuta anche in altre parti del mondo che non sono prettamente quelle anglofone, oppure l'Europa, per esempio, o altre zone dell'Europa più occidentali, perché, per esempio, non ho idea in Asia quanto sia amata la Guida Galattica. Secondo me sì, è arrivata ed è amata anche là, però chissà, magari indagheremo. Quindi partiamo da la Guida Galattica. Come dicevamo, non tutti sanno che si parte da un radiodramma, ovvero da quelli che a un certo punto negli anni, diciamo 40 forse, 45, diciamo che sono nati abbastanza con l'inizio della radio. È una delle prime cose che vengono trasmesse in radio, il radiodramma, quindi quel come si dice, prodotto, mi viene, anche se è bruttissimo, comunque quell'opera che prevede una sceneggiatura pensata, scritta appositamente, generalmente, non sempre, però insomma almeno all'inizio era scritta appositamente per la radio. E dove in diretta, molto spesso, a volte no, ma molto spesso in diretta, si recitava di base una sceneggiatura, e c'erano quindi gli attori, c'era l'orchestra spesso che faceva la musica in diretta, c'erano gli effetti sonori che venivano fatti, anche quelli in diretta. Ora, probabilmente, se non sbaglio, non è questo il caso della Guida Galattica, che invece è stato registrato. Qui siamo... non siamo negli anni 40, non siamo neanche negli anni 50 e 60, no. Siamo nel 79, quindi insomma, 78, anzi insomma, si parla di un bel po' di tempo dopo, e probabilmente le cose erano già cambiate tecnicamente. Però immaginatevi questo modello, ecco, questo format, che era molto particolare, tra l'altro in voga moltissimo anche in Rai, in Italia, che erano seguitissimo, erano trasmissioni che di fatto erano molto seguite. Alcuni erano adattamenti, perché chiaramente non potevi prendere, che ne so, Guerra e Pace e schiaffarlo in radio, andava riadattato secondo un linguaggio che è quello radiofonico. Alcuni invece erano proprio opere create ad hoc, ed è questo il caso di Guida Galattica per autostoppisti. Esattamente, esattamente. E siamo negli anni 70, quindi siamo più vicini a quello che contiamo di solito. Sì. In media. Sì, 78, guarda. Sì, sì. Era il 1977, perché Douglas Adams, che è l'autore. Il nostro eroe. Il nostro eroe della serata, dopo un'esperienza di scarso successo come showrunner per la serie televisiva Doctor Who, su quale, appunto, dicevamo prima, che tornerà poi per lavorare. Propose al produttore Simon Brett di ideare un sceneggiato radiofonico umoristico, appunto, come dicite, che quindi si inserisce in questi radiodrammi che esistevano già da tempo, prima degli anni 70, no? Come dicevamo, anzi, gli albori si trovano ben prima. Ma mi domandavo, Orwell, quando fa lo scherzo della radio, rientra in questa tipologia? Ma, sì, sì, era esattamente quello, ma erano strapopolari, era forse il contenuto più ascoltato in fondo. Altra cosa, Doctor Who, che nasce anche quello come show radiofonico, che tra l'altro, lo saprete, è cosa super nota e aneddoto super risaputo, che la prima puntata di Doctor Who doveva andare in onda, cioè va in onda il giorno esattamente dell'omicidio Kennedy, e quindi non l'ascolta nessuno. Flop totale, non l'ascolta nessuno, e da lì dicono, ecco, Doctor Who sarà niente, peccato, perché sembrava un bel prodotto, invece finirà. Invece no, assolutamente. La 50ª stagione, esatto. Il 50ª Doctor Who. Da cui si può dedurre che anche se si inizia male, non è detto che poi ci si può riprendere. Ecco. Sì, che poi sì, è stato un flop la prima puntata, ma poi tutto il resto credo sia andato molto bene. Cioè, sì. Non è il grande flop tipo di Waterworld, no? No, il più grande flop del mondo. Poi dopo, ora noi nerd lo adoriamo, però lì sì, per ma lì. Ci sono ripresi tanto. No. Cioè, i soldi mi sa che non ce l'hanno rifatti. No, non ce l'hanno rifatti. O almeno non subito, forse sul lungo periodo. Ma... non so come funzioni. Comunque, fatto sta che l'emittente londinese accettò la scommessa di Adams, e l'8 marzo del 1978, alle ore 22:30, sulla BBC Radio 4, venne trasmessa la prima delle 6 puntate di The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Sì, qui c'era anche una scommessa particolare per la BBC. BBC che nel 78 non era già più probabilmente l'emittente, come dire, un po' impaludata, un po' in giacca e cravatta, che invece era stata tipicamente decenni prima. Nel 78, cioè, insomma, era entrata già a far parte, cioè c'era già, non ci sentiva più solo musica classica, per dirne una. Lo stile poteva essere un po' più sbottonato, mentre invece, insomma, la BBC prima c'aveva dei canoni molto ben precisi. E l'altra cosa interessante è, e quindi per questo si può permettere questo stile un po' sguaiato che ha tantissimo Guida Galattica, che insomma, se l'avessero fatto 10 anni prima probabilmente non glielo facevano fare. Altra cosa interessante è che è uno dei primi contenuti di fantascienza sulla BBC, perché ricordiamoci che la fantascienza nasce come innanzitutto un modo per divulgare la scienza, quindi esattamente per renderla più accessibile. Sì. Quindi anche questa era, diciamo che almeno fu uno dei modi, penso, con cui cercò di vendergliela. Poi probabilmente fin da subito si capì che era un po' anche altro, però ecco, questa era una componente. Parliamo dello spunto per il titolo, prima di far sentire però, cioè ora parliamo dello spunto del titolo, poi facciamo sentire un po' l'inizio di questo radiodramma, perché tranquillamente trovabile, lo trovate su archive.org, i nostri meravigliosi, i nostri amati archive.org. Non è che dovete fare niente di che, probabilmente scrivendo Don't Panic o Guida Intergalattica vi viene, non Guida Intergalattica, in inglese dovete scriverlo. Hey, Hitchhiker's Guide to Galaxy, ma scrivete anche To the Galaxy. Sì, scusi. E infatti se scrivete l'acronimo HHGTTG, lineetta radio, ci arrivate diretti. Esatto, radio, BBC, sì. Ci arrivate diretti. Vabbè, aspetta, allora, prima di parlare della cosa, sentiamo l'inizio di questo, perché cambiare argomento. Un attimo solo. Bello già questo dice. By Douglas Adams. Primary phase. Ah. This is the story of The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, perhaps the most remarkable, certainly the most successful book ever to come out of the great publishing corporations of Ursa Minor. More popular than the Celestial Home Care Omnibus, better selling than 53 More Things to Do in Zero Gravity, and more controversial than Ulan Khaloufid's trilogy of philosophical blockbusters, Where God Went Wrong, Some More of God's Greatest Mistakes, and Who is This God Person Anyway? And in many of the more relaxed civilizations on the outer eastern rim of the galaxy, The Hitchhiker's Guide has already supplanted the great Encyclopedia Galactica as the standard repository of all knowledge and wisdom. Because although it has many omissions, contains much that is apocryphal, or at least wildly inaccurate, it scores over the older, more pedestrian work in two important ways. First, it is slightly cheaper, and second, it has the words "Don't panic" inscribed in large, friendly letters on the cover. Bellissimo. Meraviglioso. Che poi sta accento qua, ma che gli si deve dire? Molto molto bello e sì, io vi invito a ascoltarvelo se avete un po' di dimestichezza con l'inglese e l'inglese con accento britannico, perché comunque è molto divertente. A volte è più facile, a volte è più difficile. Io lo trovo più facile, per esempio, ma penso essere tra le poche persone. Sì, non lo so, io non lo so. Sì, molto bello e niente, questo era l'Incipit, l'avrete riconosciuto, anche qua il romanzo poi non è uguale, perché chiaramente si tratta di un linguaggio diverso, come dicevamo prima la sceneggiatura è un conto, il romanzo è un altro, però questo l'avrete riconosciuto perché insomma è abbastanza simile anche al romanzo. State soltanto sentendo Cacciaca Baio della colonna sonora del film che da ora in poi ci seguirà per il resto della puntata. Ah, questo è messo come tappetino, non quell'altro più lungo. Vabbè, è uguale. Qual era quell'altro lungo? C'era un altro più lungo, ma vabbè. Sì, no, ce n'è uno, ma roba più... Ah, 18 minuti, eccolo qua. È vero, mi sembrava tutti a 6 minuti. Vabbè, uguale. Tanto questo ci sta. Beh, poi si mette per ora 18 minuti. E via, lo spunto, per il titolo, dicevamo. Lo spunto per il titolo arrivò da una guida turistica dello scrittore australiano Ken Wells del 1972, denominata Hitchhiker's Guide to Europe. Quindi era una vera guida. Ma sì, anche perché disse anche Adams che comunque... oltre a quello lui si era fatto un giro in Grecia, avevo letto da qualche parte, e quindi sì, era molto d'uso all'epoca, era l'epoca anche in cui iniziavano le Lonely Planet, certo, quelle robe là, e quindi era molto insomma, il modello guida un po' spigliata, un po' ti do le dritte, era un modello che andava in quel momento. Assolutamente. Molto bello. E come riconosciuto dallo stesso Douglas Adams in una lettera che potete trovare, sì, potete trovare gli estratti o addirittura tutta la lettera su internet, questa lettera che inviò all'autore nel 1981, quindi a Ken Welch. Adam scrisse a Ken Welch per ringraziarlo fondamentalmente, gli disse che l'idea per la guida galattica per autostoppisti prese corpo nel 71 a Innsbruck. Una notte, in preda a una profonda crisi depressiva, uscì a osservare le stelle portando con sé la guida di Wells. Dopo averne sfogliato qualche pagina, sentì la necessità di dover scrivere una simile, rivolgendosi con gli autostoppisti intenti a viaggiare non gli autostoppisti intenti a viaggiare in Europa, ma quelli desiderosi di conoscere l'intero universo. Ma infatti lo vedremo, come, come spesso succede, questo umorismo così comico di Douglas Adams è un po' come il clown triste, cioè quindi questo sì. fatto che nascesse da un momento di profonda depressione è particolare, perché poi in fondo l'amarezza, cioè tutto il libro è pervaso di una certa amarezza, è una, insomma, è una comicità molto molto appunto triste, anche se ma vogliamo. Infatti l'attore scelto nel film, che ora non mi ricordo il nome, il protagonista, ci sta proprio bene, perché lui recita così. È vero. Sempre triste, fondamentalmente. È vero, depresso, sono tutti depressi, una merda. È interessante perché si inserisce questa volontà di fare una guida in una guida, perché era il grande periodo all'interno della fantascienza, diciamo, cosiddetta tradizionale. C'era l'utilizzo delle cosiddette enciclopedie galattiche, che si diffusero dopo la pubblicazione del ciclo della fondazione di Asimov. Erano fondamentalmente dei tomi che raccolgono informazioni sugli usi e costumi delle civiltà extraterrestri, come l'enciclopedia finale di Gordon Rupert Dixon o l'italiano Codex Serafinianus degli Angeli, realizzato dall'architetto Luigi Serafini nel 76, è diventato un vero oggetto di culto per gli appassionati. Quindi lui si inserisce in questo contesto di quello che poi verrà dopo. Non so, esistono anche le grandi enciclopedie di Guerre Stellari, dove scopri quali sono tutti i personaggi, tutte le varie razze, i mondi. Questo per raccontare com'è l'universo, perché quando tu racconti com'è l'universo, rendi più tangibile una storia. Certo. Perché la inserisci in qualcosa di profondo e non piatto, ecco. Sì, poi è anche molto bello perché è come se fosse dato per scontato che è ovvio che ci sono altri mondi, è ovvio che ci sono altre popolazioni, non è una cosa che ora teorizziamo e se per caso, no, è ovvio, cioè, è talmente ovvio che c'è una guida molto pratica e molto pragmatica che te lo spiega. In tutto questo è chiaro che è un espediente comico, però... come dire, c'è anche un Douglas Adams si è molto, molto frequentemente definito un ateo molto convinto, e quindi insomma era in aperta anche polemica con l'antropocentrismo e insomma questa tranquilla ovvietà che viene snocciolata alle religioni, che gli esseri umani sono gli unici perché creati da Dio, eccetera. Ecco, qui c'era una certezza che ti diceva: no, no, guarda, no, non è così, ce ne sono milioni di universi, anzi, assolutamente, assolutamente. Niente, come dicevamo all'inizio, Douglas era un po' scettico, soprattutto all'inizio, perché abbiamo visto che era alle 22.30, no? L'abbiamo letto poco fa, che andava in onda, quindi era una seconda serata, quindi aveva paura che danneggiasse gli ascolti, nel senso che non si diffondesse come cosa. Certo. E invece, essendo geniale, essendo i nerd un grandi fautori del passaparola, in realtà poi il successo arrivò in termini di pubblico, ma anche di critica. Sì, appunto, quando parliamo del radiodramma, parliamo di questo radiodramma che appunto poi viene pubblicato nell'ottobre del 79, come dicevi. E, tra l'altro, non mi sono dimenticata di dirvelo all'inizio, forse diciamolo adesso che c'è, sempre parlando di radio, anche la lettura ad alta voce che viene fatta del romanzo questa volta, quindi non il radiodramma ma il romanzo su Radio 3, che la trovate, letta da Valerio Prea, che vi consiglio perché è bellissima, è veramente una lettura splendida. E quindi la serie radiofonica, come dicevi, viene mandata in onda nel 79, nell'ottobre del 79, prima, nel 78 abbiamo detto. 78, sì. E niente, il radiodramma... come dire, era abbastanza, non dico improvvisato, perché comunque sia le puntate avevano un copione molto chiaro, molto evidente, e insomma c'è una sceneggiatura. Però le puntate, questo sì, l'ho trovato un po' il racconto in giro, sono state scritte un po' alla volta, nel senso che... cioè, non aveva ben chiaro dove andasse a parare sta storia. Cioè, non è che il radiodramma lui lo prende, lo scrive in 20 puntate e poi le consegna alla BBC. No, lui prima prende accordi, inizia probabilmente con un pilota, non lo so, e piano piano scrive le puntate via via. Quindi in realtà la trama di questo racconto, se notate, è anche cioè si nota che è un po' scritta. Beh, è rocambolesco, no? È rocambolesco, è come se, se reagisse ogni volta a quello che succede. Ma era perché lui scriveva le puntate un po' alla volta, ecco, non è che l'ha scritto. Esatto, perché l'idea, no, uno che si fa quando le legge è che lui è un autostoppista fondamentalmente portato via dal proprio pianeta, non ha idea di come funzioni il mondo, tant'è vero. Gli dice portati l'asciugamano. Esatto. Portati l'asciugamano, e quindi è in balia oggettivamente del mondo. Lui era un terrestre classico e non aveva idea che ci fosse un mondo sconfinato. Quindi incredibile. Esatto. E poi altra cosa molto che l'ha reso un successo, come dicevi, oltre alla comicità, al linguaggio, e oggettivamente è un racconto veramente che ti prende, molto scritto bene, e anche gli attori erano attori particolarmente esuberanti, che quindi ci stavano proprio. Ci sono delle foto che potrete trovare di loro tutti stretti ai microfoni, che si devono essere divertiti come pazzi a fare quel radiodramma. Ma oltre a questo, quello che l'ha reso famoso, che insomma ha contribuito moltissimo al suo successo, è stata anche la colonna sonora, perché sia le musiche, che sono delle musiche che Douglas Adams ha scelto con grande cura, noi ve le facciamo sentire un po' durante questa puntata, ad esempio anche questa che sentite come tappetino. Fantastica, eh? O anche quella che abbiamo sentito prima, insomma altre che sentirete, erano musiche che erano un po' divise tra la psichedelia britannica dell'epoca, c'erano anche Pink Floyd, vari, Brian Eno moltissimo, e anche tra alcuni pionieri della musica elettronica dei primi anni 70, quindi insomma questo tipo di musica che state ascoltando, i primi sintetizzatori, le prime macchine che producevano suoni, e fra l'altro molti dei quali erano asiatici, giapponesi in particolare, che erano dei grandi sperimentatori, come sappiamo, in questo ambito. E la colonna sonora è stata scelta così, e le musiche sono, insomma, per la BBC non proprio usuali, ecco, e rendono molto, accompagnano molto bene, aiutano a narrare bene la storia, ma anche gli effetti sonori, gli effetti speciali, i rumori, anche quelli erano molto ben curati. E altra particolarità che leggevo, era uno dei primi show della BBC in stereofonia. Perché tra l'altro il primo non dramma, perché al tempo leggevo che solo i drammi venivano mandati in stereofonia, e comunque pochi, perché erano proprio, cioè, era agli inizi della stereofonia, e quindi paradossalmente per farlo rientrare tra i prodotti che potevano essere mandati in stereofonia, fu classificato come dramma, nonostante assolutamente, ovviamente, non si tratta di un dramma, ma la dicitura dramma appari per questo, fondamentalmente, perché almeno potevano farcelo rientrare e usare questo strumento, che era al tempo molto strano, cioè anche chi lo ascoltava era, insomma, non era chi poteva ascoltare la stereofonia, perché se l'ascoltavi la tua radiolina non sentivi proprio niente la stereofonia, perché probabilmente l'ascoltavi in AM, quindi non, no. Però insomma era, se poi ti ascolti le registrazioni in stereofonia, ecco lì effettivamente senti anche, ti puoi godere tutti questi suoni fatti, pensati per un ascolto stereofonico. Cosa su cui si divertivano molto all'epoca. Assolutamente. E infatti piacque talmente tanto che il boom di ascolti della serie spinse la BBC, appena 2 settimane dopo la messa in onda dell'ultimo episodio, la portò a riportarlo integralmente in replica. Quindi non fu una roba che mandato una volta a stop, ma ci furono varie repliche successivamente, perché gli ascoltatori e le ascoltatrici lo volevano sentire. Il passo successivo fu la trasposizione su carta delle prime 4 puntate dello show, che ricordiamo furono in tutto sei. Fu così che nel 79, a questo punto siamo arrivati nel 79, nasce Guida Galattica per gli Autostoppisti, primo atto di una saga che sarà definita come una trilogia in 5 parti. Al primo libro infatti seguiranno i sequel, che sono Ristorante al termine dell'universo, La vita, l'universo e tutto quanto, Addio e grazie per tutto il pesce, praticamente innocuo. Sono del 92, si arriva fino al 92, quindi quasi 20 anni. E poi voglio guardare qualche altra cosa, perché secondo me hanno pubblicato anche qualcos'altro. Hanno pubblicato un sesto che non è scritto da Adams, ma scritto da Colfer. Ed è considerato il sesto volume della serie. Si chiama E un'altra cosa, And Another Thing, del 2009. Quindi postumo, Douglas Adams era già morto, e però viene effettivamente, nonostante non sia stato scritto da lui, è considerato il sesto volume perché di base è ambientato dopo, cioè prosegue dopo praticamente Innocuo, che è l'ultimo libro del ciclo, lui si attacca lì e fa proseguire la storia. Quindi alcuni lo considerano un continuo, effettivamente, anche se potremmo dire... è bizzarra, perché in realtà, non avendola scritta lui, cioè, non lo so, è un'operazione strana. No, ecco, infatti, perché stavo guardando, mi ricordavo a memoria visivamente, sono state pubblicate altre sue opere poi dopo, quindi ne possiamo parlare dopo, tipo La lunga oscura pausa caffè dell'anima. Sì, lì poi c'è il mondo, lì c'è il mondo. Mi è venuto in mente perché mi ricordo, ne aveva scritto uno dove c'era la parola salmone, ora lo troverò prima o poi, perché mi ricordo c'era il salmone interstellare, tipo. Sì, me lo ricordo anch'io, è molto bello. Qualcosa del genere, sì. Vabbè, comunque, questo era. Allora, forse prendiamo una pausa musicale. Ti volevo dire proprio questo, ascoltiamo il primo pezzo, il primo dei pezzi che... si sono ispirati proprio alla guida intergalattica della sottopista, in particolar modo al robot depresso che... Marvin. E sono proprio i Radiohead che scrivono Paranoid Android proprio su, dopo aver letto e ispirandosi. Il personaggio preferito di sempre, assolutamente, non c'è alcun dubbio. Thank you. Rieccoci qua, questo era... Cos'era? Era una paranoia android dei Radiohead. L'ho detto prima e è sempre quella. Non è cambiato. Era Marvin. Era Marvin. No, ve lo ricordate, Marvin che è depresso, il robot depresso. Molto bella. Mi piace tanto quanto la porta che si apre e si chiude sospirando. Bravo, stavo per dirtelo io. È bella quasi altrettanto. Esatto, bellissimo. Non ce l'ho le citazioni, non l'ho scaricata, avrei potuto, effettivamente. Vabbè, tanto ve le ricordate. Quindi, dicevamo... Allora, intanto, una cosa ganza che io non mi ricordavo, che Arthur Dent, nonché il protagonista della serie, nel romanzo di lavoro fa lo speaker radiofonico. Io non lo ricordavo assolutamente. Eh sì. Insomma, no, la storia, raccontiamo un attimino il plot. Un giovedì come tanti, nota alcune ruspe che vogliono abbattere casa sua per fare posto a una tangenziale. Le ruspe, in realtà, no, prima lui litiga perché pensa gli vogliano distruggere la casa, ma in realtà il problema è un piano superiore. Sì, no, cioè questo dialogo meraviglioso che ricorderete, in cui appunto lui litiga con i funzionari del comune che gli dicono: ma lei aveva tempo X giorni per fare ricorso. Insomma, e lì si perde nei meandri della burocrazia, dove fondamentalmente era impossibile di fatto fare ricorso. E poi sì, a un certo punto però viene fuori che quello era il problema minore. È il problema minore perché appaiono gigantesche astronavi, navicelle dei Vogon, che è questa razza iperburocratica, dedita veramente, cioè solo la grande burocrazia li rende felice, nient'altro, che vanno da, citando, una delle razze più sgradevoli della galassia, cioè gli esseri umani ci considerano tali, determinati a distruggere la Terra per fare spazio a un'autostrada interspaziale, insomma. Quindi è la stessa cosa. Lui, quando si rivolgerà ai Vogon, dirà: ma che state facendo? Avevate 20 anni luce per fare ricorso. Il micro e macrocosmo. Esattamente. Sì. E quindi già questo inizio in realtà è geniale del... Sì. Nel pallino nell'universo, e che poi la burocrazia in sé, insomma, si ripercuote a livelli anche superiori, no? Incredibile. Sì, quasi una cosa ineluttabile che te ovunque vai nella galassia comunque ti ritroverai con questo male non neanche solo dell'umanità, di chiunque. Di chiunque, esatto. Evidentemente il perdersi nella burocrazia è probabilmente qualcosa di immortale. Dicevamo che appunto Arthur Dent e tutti i terrestri non hanno idea che esistano altri alieni, quindi quando arrivano queste astronavi rimangono perplessi, e Arthur verrà messo in salvo subito, perché è da cui parte la storia, dall'amico stretto, Ford Perfect, che gli, dopo aver bevuto due birre alla spina, alla goccia, perché sono l'ultimo che potrà bere, gli dice: guarda, io sono un alieno, non sono un essere umano, andiamo via. Ah, è un alieno di Betelgeuse, no? Sì, tra l'altro non è che fa particolarmente una grinza Arthur Dent quando gli dice sono un alieno. No, è vero, effettivamente, perché sì, è un personaggio che comunque alla fine... Non lo so. È un po' apatico, cioè un po'... Sì, accoglie tutto con... ok. Vabbè. È un po' il cittadino britannico, secondo me, che vuole rappresentare Douglas Adams. E niente, lui quindi riesce a scappare, grazie al suo amico Ford, clandestinamente su una delle astronavi dei Vogon, e lì subito Ford gli farà vedere come si può sopravvivere nell'universo, cioè grazie alla guida intergalassica per autostoppisti. Esatto, e da lì, diciamo, parte questo viaggio, questa odissea con mille avventure assolutamente sconclusionate. Cioè, da qui in poi non c'è una vera trama che vi possiamo raccontare, c'è solo una serie di incontri che queste persone fanno, e di fondamentalmente danni e gaffe e problemi che incontrano, generalmente dovuti a incomprensioni, a equivoci, per cui questo viaggio si complica sempre di più, diciamo. Però la costante di tutta questa odissea molto confusa, dove fai veramente fatica a orientarti, è la guida galattica, che comunque è un punto fermo, e lo status di autostoppista, quindi questa possibilità che, per quanto tu possa essere incasinato, te c'hai questa risorsa dell'asciugamano e anche nel panico puoi prendere e farti raccattare da qualcuno, e hai diritto a scappare in qualche maniera. Esattamente. E nel senso, nell'arco dei vari romanzi troveremo varie tematiche importanti, poi nascoste dietro questa ironia alla Monty Python, tra l'altro, per cui lui scrisse per i Monty Python, lo fece un po' di sceneggiatore, quindi insomma, se non avete mai visto niente di Monty Python, guardateli. Però insomma lo ricorda abbastanza effettivamente, anche perché gli attori sono inglesi effettivamente, lui stesso è. E i temi che vengono riportati, potremmo dire, c'è la tutela di tutte le diversità, il rispetto per l'ambiente, per la vita, l'eguaglianza sostanziale, l'emarginazione sociale, tutti i temi che vengono trattati comunque all'interno dei vari libri, ecco, in modo diverso, attraverso i vari personaggi poi che incontreranno nel loro viaggio. Sì, il tutto fatto con questo stile tipicamente di umorismo, tipicamente britannico, molto dissacrante, molto così leggero, apparentemente leggero, ma in realtà molto amaro poi di fatto. Cioè, non mi ricordo se l'abbiamo detto all'inizio, comunque non è un caso che all'inizio, quando si è trattato di scrivere questa idea, diciamo, che fosse radiofonica o romanzo, lui se la immaginava come ogni episodio era la terra che finiva in qualche maniera. Cioè, ogni volta era la terra che moriva per qualche modo, e quindi, cioè, già questo ci dice molto, cioè evidentemente racchiude in sé tutta l'amarezza di vedere tutto il mondo intorno a te che sta esplodendo in qualche maniera, ed era il 78, povera lui, quante non ne ha viste. E però anche, appunto, dirlo in maniera ironica, in maniera agrodolce, ecco, se vogliamo. Esatto. L'intera opera è, tra l'altro, ricca di riferimenti filosofici e di critiche, ma neanche poi troppo velate. No, direi di no. Ad alcune contraddizioni tipiche della società contemporanea. Ad esempio, nel capitolo di apertura del saggio Philosophy and the Hit Kitchen Guide to the Galaxy, Ben Sanders e Eloise Harding hanno fatto riferimento al secondo romanzo della saga, che è Ristorante al termine dell'universo, per sottolineare come Adam abbia anticipato alcuni temi, per esempio quello del veganesimo contemporaneo, trattando il tema del rispetto per la vita degli animali. Il protagonista, trovandosi di fronte a una mucca che lo invita a mangiarla, viene assalito per la prima volta dal dubbio morale sull'opportunità di cibarsi della sua carne o meno. Erano temi di cui ancora non si discuteva. Sì, anche la parte iniziale, proprio quella dello scambio di soldi, cioè c'è moltissimo la critica anticapitalista. Poi ora noi sembra che, appunto, parlando in questi termini, sembra che gli vogliamo appioppare delle cose. No. Ma in realtà è molto evidente che, cioè, nel senso, si legge abbastanza ovvio, non è che è un'interpretazione nostra, insomma, è molto chiara. Ad esempio, l'incipit proprio del romanzo, lui dice: lo scambio continuo di pezzi di carta verde, esatto, è un fatto indubbiamente strano, visto che esseri infelici non erano i pezzetti di carta verde, ma gli abitanti del pianeta. Esatto, perché lui dice: voi siete felici grazie a questi pezzettini, ma in realtà non sono. Cioè, siete bizzarri. Sì. Fantastico. Tra i riferimenti filosofici presenti è centrale quello della monade, per esempio. Capirai, capito? Di Leibniz. Esatto. Così, no? Secondo Leibniz, la monade è una sostanza semplice e indivisibile, priva di parti e di conseguenza sprovvista di estensione. Una monade è impossibile da disgregare, è diversa da ogni altra e rappresenta l'universo sotto un punto di vista particolare. Lo stesso Arthur Dent, protagonista del romanzo, può essere descritto come una monade che contiene dentro di sé l'intero universo e che ne scopre progressivamente l'essenza con la sua esperienza da autostoppista galattico. Perché poi l'autostoppista vuol dire che tu non sai mai chi ti darà il passaggio, per cui loro alzano il pollice e finiscono in astronavi a caso, se non di chi è a portata, quindi l'avventura è... Ma sì, ma poi anche continua. Davvero senza volerla tirare troppo per i capelli, però ci mettiamo davvero, come si diceva prima, anche i neoplatonici, il microcosmo e il macrocosmo, cioè questo fatto che certe cose le noti te dal tuo vicino di casa e poi le ritrovi paro paro a 40 milioni di anni luce lontano da te. È un qualcosa di più che semplicemente un escamotage ironico, cioè è anche un rendere tutto simile, cioè tutto, sì, cioè, sì. Ma in fondo appunto certe regole, certe leggi, certe dinamiche le puoi ritrovare in maniera universale veramente. C'è anche un debito intellettuale interessante di verso da parte di Douglas verso Thomas Fincon, di cui riprendere un'idea esposta nel romanzo L'incanto dell'849, tra parentesi il complotto dei delfini, dove lo scrittore postmodernista descriveva un ragazzo convinto dell'esistenza di un complotto per sostituire l'umanità con i delfini, e da lì quell'incipit che avete sentito, i delfini ci danno il bona, che in realtà sono molto più intelligenti di quello che sembra. Sì, esatto. Sì, e poi, vabbè, ovviamente se si parla di filosofia c'è tutto il di fondo, il grosso, la grossa, certo, domanda del chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, cioè tutti i quesiti essenziali dell'umanità che ricorrono tantissimo e che finiscono col diventare il centro del romanzo in qualche maniera, cioè sono un po', se non la fine, comunque sia sono la questione fondamentale. E vedremo che questa risposta viene data di fatto, quindi cioè, sì, possiamo già parlare, direi, o aspettiamo? Ma sì, secondo me ne possiamo dire la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto. Praticamente si interrogano moltissimo su questa cosa e Arthur Dent scopre che non è un quesito che solo gli umani si pongono, tutti se lo pongono, certo, perché tutti si chiedono, ma insomma, ma noi, ma da dove arriviamo? E la soluzione del dilemma in questo romanzo praticamente viene affidata a pensiero profondo. Fantastico. Che già, vabbè, già Deep Thoughts, che è il secondo più grande computer dell'universo, del tempo e dello spazio. Siamo nel 78, ricordiamoci. Esatto. Che viene creato ad hoc da una civiltà avanzatissima di esseri superiori, pandimensionali, già questa cosa che lui si immagina, la pandimensione mi butta via. E quindi loro cosa fanno? Gli viene affidato, anche qui, la leggera frecciata alla tecnocrazia, no? Cioè, quindi viene incaricata la tecnica, la scienza, di dare una risposta attraverso questo super mega computer che sicuramente troverà la risposta. Essendo un enorme mainframe, ci pensa un sacco, ci sta lì, elabora. Migliaia di anni. Ci mette 7 milioni di anni, ecco, okay, e mezzo. Ok, non migliaia. No, e alla fine, chiaramente, ok, è pronto, dà questa risposta e chiaramente si fa una gran cerimonia perché tutti sono lì in fibrillazione, aspetta cosa dice, e dai, ve lo spoileriamo, tanto cioè veramente non potete ormai non saperlo, quello che è il risultato è il 42, il numero 42. E attorno a questo numero 42 di fatto vedremo, cioè, orde di nerd si sono scatenate negli anni successivi, per cui il 42 lo ritrovate veramente dappertutto, è uno dei vari riferimenti che le persone fissate con la Guida Galattica hanno disseminato, penso, ovunque. Così la butto là, parlavamo prima dei Monty Python. Guarda un po' i Monty Python Flying Circus, che è una serie dei Monty Python, bellissima, episodi che vi invito a guardare perché sono splendide, tanto la trovate su YouTube tranquillamente. E Adams fa un cameo nell'episodio 42 di questa serie, dove lui fa fondamentalmente un chirurgo, fa proprio un cameo così, e però ovviamente glielo fanno fare nell'episodio 42, e ci sono moltissimi riferimenti al numero 42, li trovate nell'informatica, ovunque, codici, dove a un certo punto ci finisce il numero 42, insomma è un po' il segreto di Pulcinella, il grande riferimento che orde intere di nerd amano. Sì, cioè, ci sono proprio studi, saggi, addirittura quella merda di Gaiman, va bene, detto così, quella merda di Gaiman, Neil Gaiman ci ha scritto addirittura un saggio sul numero 42. Però poi in realtà lo stesso Douglas ha chiarito la questione. Lo stesso Douglas ha detto nel 93, la risposta è molto semplice. Era uno scherzo. Esatto, ma certo. Certo, ragazzi, ma cosa stavo pensando? Doveva essere un numero, un normale piccolo numero. Io scelsi quello. Rappresentazione binaria, calcoli a base 13, monaci tibetani sono solo una completa sciocchezza. Ero seduto sulla scrivania, fissai il giardino e pensai, 42 funzionerà. Bellissimo. Lo scrissi alla macchina, fine della storia. Perché effettivamente la cosa importante di questo artificio narrativo è che non è il computer che dice la risposta è 42 e tutti fanno cosa, come? E poi il computer dice sì, ragazzi, il problema è che non mi avete proposto la domanda. La domanda è mal posta. Quindi beccatevi sta risposta. Comunque qualsiasi nerd ti avrebbe risposto, avrebbe puntualizzato però esatto. L'hai detta male. Esatto. È evidente. Ma io mi chiedo, no? E poi com'è andata? Siccome poi chiaramente non sono stati soddisfatti della risposta, poi che hanno fatto? Gli hanno riformulato la domanda e ci hanno messo altri 7,5 milioni di anni? Perché magari è andata così. Cioè, il punto è quello, no? Il punto è che, maledetto computer, ma dimmelo subito e non è posta bene. Non dopo tutti questi milioni di anni, no? No, ma un nerd si farebbe esattamente così, essendo macchine. Certo, esatto. E quindi, però, va bene, gli poni un'altra domanda. Sarà quella giusta? Boh, lo scopriremo. Chissà. Problemi tuoi se non sei bravo a dire le domande. Sì, ma infatti è molto bello tutto ciò. Ovviamente nel 78 lui non poteva sapere, anche se si iniziava a parlare di intelligenza artificiale, sicuramente non poteva sapere, per fortuna sua, di insomma, non poteva avere in testa ChatGPT e i vari oracoli a cui adesso noi chiediamo la qualsiasi cosa, e poi anche lì per scoprire che magari gli abbiamo fatto la domanda sbagliata. O dobbiamo imparare a fare le domande come le vuole le macchine, cioè quindi di fatto dobbiamo imparare a ragionare come macchine per farci rispondere da una macchina. Allora forse era meglio se la risposta ce la davamo da sole, forse, chissà. Oppure appunto magari piuttosto che non c'è una risposta univoca, non c'è... e quindi non è impossibile fare la domanda. E rimani col dubbio. Rimani col dubbio e stacce, forse è proprio quello il significato della vita. Esatto, e quindi questa era il 42 e sì, di base qui, come dicevamo, si va avanti nel romanzo. Chiaramente, cioè, il nostro protagonista, che abbiamo definito come una persona sostanzialmente apatica, comunque che la prende un po' bene, ma in realtà si fa prendere da un sacco di crisi di nervi durante... Sì, certo. Perché comunque bello tutto, però al di là della stupore, perché devo dire, non è che si stupisce, però dice no, vabbè, però basta, cioè si scoccia, si dispettisce, dice no, ma quante me ne state facendo? Però non è che è particolarmente stupito, come se fosse una persona abituata alle vessazioni. Esattamente, secondo me è proprio quello, cioè abituata a incassare e poi esplodere, cioè esatto. Modo in cui non si dovrebbe reagire. E quindi è anche questo protagonista, non è un supereroe, anzi è una persona normale e problematica, anche complessata, quindi che si trova all'improvviso alle prese con un universo totalmente folle, perché incontra personaggi totalmente folli, rincontrerà anche un altro essere umano nel suo viaggio, che nel film viene chiaramente una parte centrale, appunto, non mi ricordo come si chiama lei, la ragazza... Trillian, brava, con cui lui ha un approccio all'inizio della storia, che poi rincontrerà sull'astronave di questo personaggio incredibile, con la doppia testa, vabbè, sì, bellissimo. Come gli è venuto in me. Che poi io penso, no? Cioè, ho sempre pensato, ma si faceva dei trip giganteschi lui per scrivere sta roba? Cioè, dai, cioè, nel senso... Io non posso non pensare dell'abuso di sostanze stupefacenti, perlomeno alcol. Sì, o leggere comunque, non lo so. Sì, è che ha visto, ci sono persone che hanno una mente molto fervida e che dice anche al naturale, che sono un po' pazze di suo, e quindi magari è il cervello. Chissà. Cioè, perché noi siamo abituati, abbiamo parlato di tanti grandi scrittori Ecco, le scrittrici legate alle droghe ne abbiamo parlato molto meno, devo dire, ci è capitato meno. È invece gli scrittori che si drogavano come pazzi, ne abbiamo letti svariati. Perché? Perché molto spesso l'artista è quello problematico e da questo suo dolore tira fuori il meglio, no? Il bohemian. Esatto, è un po' il bohemian e ci avevano un po' ragione, poi è chiaro che si può declinare in vari modi. C'è una roba che hai scritto tu che è il pesce di Babele. Sì. Che cos'è? Perché io ne sono ignorante. Sì, perché allora a un certo punto parlavamo prima di queste citazioni perché come dicevamo la guida galattica per gli autostoppisti in generale tutto il ciclo di Douglas Adams ha avuto un successo enorme, viene ripreso moltissimo e soprattutto dagli informatici e le informatiche o comunque da tra virgolette le persone nerd e ad esempio tra i vari esempi che potremmo citare c'è Babelfish che è un traduttore di Altavista, quindi qui siamo veramente agli albori, cioè non è una roba, non te la ricordi perché è di tanti anni fa, però di fatto era un traduttore e... Il nome mi dice, ma non... Ma infatti, anche a me mi dice, ma comunque è una roba vecchia, comunque un software che era un traduttore che prende spunto dal pesce di Babele, che era un'invenzione di Douglas Adams, trovato, non so se era nella guida o in quale altro dei romanzi, che era una specie di simbionte, che era un traduttore universale. Se ti ricordi c'è anche nel film, ed è sto pescetto, pesciolino, certo, che traduce di base, grazie a sto pescetto le varie specie, le varie razze riescono a comunicare, perché altrimenti come fanno a comunicare tra loro? Beh. Anche lì in vari romanzi anche l'inglese è dato per scontato, perché è bellissimo l'inglese, o comunque il linguaggio umano è qualcosa di ovvio. Se tu vai da un'altra parte, c'è chi ha indagato molto sul linguaggio e l'abbiamo detto varie volte, ma invece molto spesso i romanzi un po' più così di fantascienza danno per scontato che vabbè il linguaggio era l'ultimo dei problemi. E Douglas Adams trova questo escamotage, che è questo pescetto che fa da traduttore, insomma. E è geniale. Beh, altri scrittori o altri autori invece si sono resi conto che magari in realtà il linguaggio potrebbe essere trasmesso in modo diverso, per esempio tramite odori, esatto, come accade in alcune opere. E lì il pescetto fa poco, perché il pescetto funziona che si nutre di ciò che arriva dalle onde che arrivano dall'esterno e poi le ricaga fondamentalmente, però tradotte a quel punto secondo quello che tu puoi capire. Esatto. E quindi è bellino questa cosa, che non sia una macchinetta, un oggetto, un meccanismo, ma che sia un essere vivente che fa questa... Sì, ma infatti c'è molti escamotage buffi e carini, veramente, al di là delle trovate umoristiche, anche altre, sono veramente un'esplosione di fantasia. Altri riferimenti che sono stati citazioni, gente che ci è andata in fissa... possiamo citare il computer scacchistico Deep Thought della IBM, che è stato il primo computer capace di battere un grande maestro internazionale di scacchi. Quindi il nome deriva da, come dicevamo prima, pensiero profondo, che era il super computer che poi dà la soluzione al grande quesito, e in maniera molto umoristica, secondo me molto anche autoironica, loro chiamano questo grande computer Deep Thought. E l'IBM, per quanto siano degli stronzi, una cosa buona l'hanno fatta, forse, in effetti c'era all'interno un dipendente con della bella fantasia. E un altro riferimento abbastanza inutile, però buttato lì, che è questo programma di messaggistica istantanea che si chiama Trillian, un programma abbastanza dimenticabile, francamente, che però è chiamato, il riferimento ovviamente è alla protagonista femminile che dicevamo prima, Trillian. E vabbè, ma come queste ce ne sono milioni, veramente, anche di cose magari di software meno noti, di scritti, fumetti, cioè chiunque ci ha infilato qualche riferimento alla guida, ecco. Allora, c'è una cosa che è interessante invece, perché negli anni 80, quindi non troppo dopo la pubblicazione, Steve Meretsky della Infocom contattò Douglas Adams per invitarlo a collaborare alla realizzazione di un videogioco. Infatti. Interamente dedicato alla guida per autostoppisti. non si trovano. Io non ci ho mai giocato, per esempio, non mi era mai capitato di per le mani. Zero. Quindi non ho tante notizie legate a, a questo qui. Zero. Però sì, vabbè, appunto, come si diceva, oltre a questo c'è stata la serie TV, sempre della BBC. Tra l'altro una serie TV piuttosto carina, nel senso che era uscita pochi anni dopo. Ah. E anche questa molto, molto, di fatto molto aderente alla, al romanzo, e però fatta con questi effetti speciali, veramente fatti con 5.000 lire. Ci sono questi questi robot quasi cartonati, cioè insomma molto, molto finta se vogliamo, ma divertente anche per quello, insomma, perché è casereccia. Eh sì, esatto. Scusa, mi stavo finendo che non avevo visto questa cosa. La BBC per il ventennale dell'uscita del libro ha fatto un restyling del videogioco. Ah. E poi c'è un remake attuale, quindi una terza versione, seppure molto fedele, ed è disponibile gratuitamente in lingua inglese sul sito ufficiale della BBC. Quindi ora ci provo ad andare a vedere come funziona. Se avete modo, andate a vedere se siete interessati. Bene, io metterei un altro pezzettino, perché in realtà ci stiamo avviando verso la conclusione. Sì, abbiamo detto praticamente tutto. Allora, andrei con Journey of the Sorcerer. La remasterizzazione del 2013, però comunque valida, sempre legata al film, perché è nella colonna sonora del radiodramma. Esatto, sono confuso. Quindi sentiamo un attimo. Rieccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser. Stiamo parlando di Douglas Adams e la guida intergalattica, proprio stoppisti, e poi un po' tutto quello che gira intorno a Douglas. Poi avremo modo sicuramente di approfondire, perché ha scritto tante altre cose. Però intanto in sottofondo state sentendo Set the Controls for the Heart of the Sun dei Pink Floyd. Testo ispirato fortemente alla guida intergalattica per autostoppisti, e non solo, ma abbiamo scoperto che nella vita reale era molto amico Douglas di David Gilmour dei Pink Floyd, e per il 42esimo compleanno di Douglas Adams, 42esimo, sì, tra l'altro, l'amico David Gilmour gli diede l'opportunità di unirsi a Pink Floyd sul palco durante il loro tour del 94 dal vivo all'East Court di Londra, e Douglas ha suonato la chitarra ritmica sui brani di Eclipse e Brain Damage. Capito? Cioè, mica... Insomma, no... mica robetta. Non robetta. Sì, ma in effetti Douglas Adams, come si diceva all'inizio, insomma, dimostra anche solo nella serie radiofonica dell'aver scelto dei brani musicali non a casa, cioè era chiaramente figlio della musica britannica del periodo, insomma, c'era loro, c'era Brian Eno, c'erano gli Eagles con la psichedelia, come abbiamo sentito adesso, prima, giusto? C'era la musica contemporanea elettronica britannica e non, insomma, era una persona probabilmente molto appassionata di musica, che insomma ne sapeva un bel po'. Eh sì, dice che per il ristorante alla fine del tempo si è ispirato invece a questa volta Douglas ha questo pezzo qua, il Grand Hotel. Hai capito? Nel frattempo combatto le zanzare. Sì, madonna, ce n'è veramente un'infinità. Ora parte il pezzo, volevo far sentire l'incipit. Famoso. Comunque io l'avevo già sentito. Dice con questo pezzo gli è venuto in mente... appunto è un pezzo che racconta di questo Grand Hotel, e gli è venuto in mente. È certo. Molto classico. Molto britannico pure questo. Allora, abbiamo un'altra grande opera, un po' meno conosciuta, ma ripresa poi invece, tornata insomma alla ribalta grazie alla serie televisiva di Dirk Gently. Sì, di cui dicevamo potremmo parlarvi in una delle prossime puntate, perché effettivamente merita forse un approfondimento a parte, perché è una serie di romanzi che ha scritto, sono due libri, poi in realtà mi sa che ne ha fatti anche di più, comunque una serie di romanzi che ha scritto, il cui protagonista era questo investigatore olistico, un investigatore privato olistico, che quindi anche lì ritorna un po' questo modo di infilarci la filosofia, il caso, il destino, come le cose in fondo spesso vanno avanti per ragioni insondabili, imponderabili, che chissà perché avvengono. E quindi Dirk Gently è molto divertente, e dai romanzi ci hanno fatto poi una serie, come dicevi, uscita qualche anno fa, famosa perché c'era il tizio quello di Elijah Wood. Esatto, c'è Frodo come assistente. C'era Frodo, e esatto. Nemmeno di nuovo lui non è un assistente, ma è una persona che suo malgrado si trova, anzi, che gliene succede tutti i colori, e vive una vita di merda, proprio come Arthur Dent, lo ricorda veramente tanto, e che viene tirato dentro da Dirk Gently in tutte le sue avventure. Sì, devo dire, la serie è carina, a me si diceva prima fuori dai microfoni, un pochino forse stanca. La però, serie sì. Sì, però la serie, io ho trovato divertente la fotografia, i colori, sembrava un po' alcune cose di Tim Burton, delle cose tipo Pee-wee, cioè quelle cose lì un po' con i coloroni sparati, questi vestiti un po' eccentrici, quello mi è sembrato divertente, però per il resto sì, era un po', dopo un pochino annoiava. Però invece i romanzi sono molto belli, molto divertenti, magari appunto ve li racconteremo con un po' più di calma in una puntata dedicata. Altre perle che ci ha regalato Douglas Adams, per esempio, leggevo questo The Meaning of Life, The Deeper Meaning of Life. Preso da sempre Monty Python. Esatto, palesemente è una citazione, come dire, un riferimento, che era una specie di vocabolario dove a una serie di nomi di città viene assegnato un significato per nominare concetti comuni per i quali non esiste ancora una parola. Bah, bizzarro. E poi, come citavi a un certo punto, l'avevi citato all'inizio, c'è questa ultima occasione che è un resoconto che lui fa nel 1990 di un suo viaggio per il mondo in cerca di specie di animali in pericolo. E niente lì, vabbè, in particolare gorilla e rinoceronti, vabbè, personaggi non deve essere. E infatti la chicca finale è questo qui che hai detto tu, è appunto l'ultima occasione, la ricerca speciale di animali in estinzione, ma abbiamo il salmone del dubbio, e già il titolo è geniale. Una roba, io quando l'ho visto una volta, l'ho visto in libreria, ho detto no, ma questo lo devo avere, devo leggerlo. L'ultimo giro in autostop per la galassia, nel senso che non c'entra niente con la guida intergalattica per autostoppisti di per sé, perché nel 2001, non mi ricordo se l'abbiamo detto, Douglas Adams è morto per un infarto, purtroppo a 49 anni. Sì, giovanissimo. Giovanissimo. Però il fascinoso materiale che compone il libro del salmone dubbioso, del dubbio, è stato recuperato dai suoi 4 computer e comprende, tra le altre cose, basso la musica perché bisogna capire bene cosa si parla. No, infatti, poi ci si rischia. Allora, una lettera al direttore di una rivista per ragazzi scritta a 12 anni. Vabbè, fin qui. A 12 anni lui ha scritto una lettera. Un elaborato e sognante ricordo della sua lunga storia d'amore per i Beatles. Beh, vabbè. Vabbè. Un pezzo del 1991 intitolato Il mio naso. Questo già cominciamo, lo vorrei leggere. Esatto. Un articolo in cui Adams chiarisce approfonditamente la sua spiccata preferenza per il whisky. Questo sarà capito un po'. Sì. Ah, infatti dicevi se si faceva probabilmente tanto whiskone. Ci ha risposto. Un reportage su un suo surreale pellegrinaggio, e qui veramente detto capici incredibili, pellegrinaggio in giro per l'Africa travestito da rinoceronte. È lì, vabbè. Poi divagazioni sul computer, ebook e nuove tecnologie, quindi lui che ragionava sulle nuove tecnologie, racconti umoristici e i 10 capitoli del romanzo che stava completando, dal titolo appunto Il salmone nel dubbio, che però è rimasto incompiuto perché non l'ha mai finito. Io trovo veramente, in sintesi, le cose penso che adoro veramente di lui sono un po' la capacità, da un lato, di infarcire i suoi libri di una goffaggine molto tenera, nel senso che ha una pietà verso gli esseri umani e la loro goffaggine, che è difficile trovarla in altri libri di fantascienza, se non altre opere in generale. Perché non è drammatica, in altro tipo di fantascienza di cui vi abbiamo raccontato si parla di fallimenti, di goffaggine, certo, ma è sempre qualcosa di molto drammatico, di molto pesante. Invece qui c'è una solidarietà di qualcuno che se la vive con la goffaggine e non ne ha così paura, in fondo la guarda sorridendo in qualche maniera. E l'altra cosa che trovo veramente meravigliosa è la sua capacità di far scendere dal piedistallo le tecnologie, cioè quindi di detronizzarle. Giusto. Quindi basta con questa religione per cui adoriamo, ci mettiamo a venerare la tecnologia, anzi le tecnologie sono goffe e buffe tanto quanto noi e non ci daranno tendenzialmente nessuna risposta e sono qualcosa di cui ridere in maniera anche così non maligna, ma cioè di base fanno parte di noi e ne dobbiamo ridere, fanno parte della nostra goffaggine. Sì, è probabilmente quella parte, una delle poche parti decenti della tradizione inglese, che è proprio questo. Sì. Sì. È appunto i Monty Python inglesissimi e insomma infatti lui è in questa nebulosa di attori o comunque artisti. Sì, tra l'altro devo dire che è un'autoironia non altezzosa, sì. Sì, cioè esatto. Cioè non è che appunto è molto molto tenera, come dicevo, cioè nel senso è qualcosa che dice sì, ma siamo un po' tutti nella stessa barca, ci si prova, sì, però dai, cioè così. Esatto. Poi viene quel che viene. E quindi sì, questo era un po' il nostro racconto. Non mi ricordo, mi sembra che abbiamo detto tutto. Tutto quello che avevamo preparato lo abbiamo detto. Tutto lo scibile. Questo era un po' quello che vi volevamo raccontare riguardo la Guida Galattica. Chiaramente non vi abbiamo detto tutto, non vi abbiamo raccontato nel dettaglio la trama, perché se non l'avete letto dovete leggerlo. Prendetevi un po' di spazio per leggere il libro, perché al di là davvero del film che magari avrete visto, che è una trasposizione anche godibile, a me mi ha fatto anche ridere, è stata anche carina, però il romanzo è tutta un'altra storia, è molto più, cioè veramente spassoso, e anche l'originale della BBC radiofonico è molto bello, e quindi insomma trovate un po' di tempo per leggerlo, perché ve lo consigliamo assolutamente se non l'avete ovviamente già fatto. Esattamente, anche questa è famosa. Sempre Prince Oxygen 4. Presa la. Questo è del Giappo, non mi ricordo più come si chiama, lui è famoso. John Michael Jarre? No, allora era l'altro, scusami, sì, no, è vero. Comunque, siamo in conclusione, questa era appunto la monografia su Douglas Adams. Qui alle porte di Tannhäuser, e noi vi salutiamo e ci sentiamo probabilmente on Dear Gently, ma chissà. Con noi non lo potete mai sapere, potrebbe cambiare tutto. Chiedetelo al pensiero profondo. Esatto, non vi risponderà, oppure no. Vi risponderà troppo tardi, oppure chissà. La risposta è sbagliata. Wombat! Ciao! Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto. As it should always be, the foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. È sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra! Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.